9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 29 giugno. Innanzitutto un saluto a tutti, Pietro e Paolo. Oggi avremo pochi ascolti a Roma, perché San Pietro e Paolo, sapete, festa a Roma, quindi sono sicuramente molti ne approfittano per il ponte. Tiro le orecchie, la produttività, sapete che Giannino è un po' pazzarello e quindi non vorrebbe mai andare in vacanza. Ma detto tutto questo, la puntata oggi è dedicata, siccome siamo al prodromo, per così dire, al giorno preparativo della tanto attesa manovra di correzione con la pluriennale estiva, che dal 2008 è entrata nell'abitudine delle procedure contabili del nostro paese, per fortuna, perché ci si evita di ridursi solo a fine anno con quella che si chiamava legge finanziaria, ora si chiama legge di stabilità, e quindi si dà una girata di vita ai conti pluriennali, sicuramente contribuendo a fare in modo che la politica si distragga meno rispetto all'obbligo di tenere le vide solidamente strette per evitare di perdere il controllo dei saldi. Sappiamo tutti di vivere da un anno e mezzo, a prescindere dalla grande crisi finanziaria mondiale precedente, ma da un anno e mezzo siamo con questo ballo dell'eurodebito e il problema della Grecia eternamente irrisolto, dietro a cui ci sono gli altri convogli dei paesi eurodeboli, Portogallo, Irlanda, Spagna, c'è anche poi l'Italia, per l'ingente ammontare del suo debito pubblico, che ne ha, di cui ha contenuto l'espansione in questi ultimi anni, però bassissima crescita, e quindi problema che resta all'attenzione di tutti. Sappiamo gli spread aumentati oltre 220 punti base sul Bund tedesco, venerdì la sveglia che ci è arrivata sui mercati, e quindi puntualmente, ecco, risplodere in queste ultime settimane, dopo lo schiaffo preso alle amministrative e ai referendum dal governo e maggioranza, riesplode il consueto problema nel centrodestra, il consueto problema che si sintetizza in: ora che il ministro Tremonti ci ricorda che come al solito abbiamo consegnato un documento, l'ex DPF, si chiama DEF oggi, in cui ci siamo impegnati con l'Europa all'azzeramento del deficit entro il 2014, quindi una manovra di 43-45 miliardi di euro, che serve a correggere il fatto che tendenzialmente la spesa pubblica continua a crescere. Nel 2010 è diminuita, è solo il terzo anno che capita nel secondo dopoguerra rispetto all'anno precedente, e rispetto ai 793 miliardi del 2010 arriverà più o meno a 860 miliardi nel 2014. In questi tre prossimi anni anche le entrate aumenteranno dalla bellezza di 93 miliardi di euro, mica poco, e passeranno dai 722 a 815, ma malgrado i 93 miliardi di euro in più di entrate previsti, e col cavolo, ne servono ancora 43-45 per sanare il deficit, perché nel frattempo appunto la spesa, soprattutto corrente, continua a galoppare. In questo quadro, quindi, dice Tremonti, bisogna intervenire con tagli veri, aggiuntivi. Esplosione di problemi nel centrodestra, ma ci vuoi far perdere le elezioni ancora di più, Berlusconi? Ma insomma, quando la capisci che qui non bisogna solo pensare ai tagli e le tasse che abbiamo promesso a 17 anni di tagliare, ecco, esplosione di tensione del centrodestra. Abbiamo ascoltato dai microfoni di Radio 24 Guido Crosetto in questi giorni. Ieri, incontro di maggioranza, invece Giulio Tremonti si apre alla collegialità. Oggi i giornali sono tutti ispirati alla discrezione del Giulio Tremonti collegiale, che spiazza tutti. Questa volta niente dimissioni, ma no, presentatemi le vostre osservazioni, ecco qui le mie 70 pagine, sono in realtà 47 miliardi, avete tutto domani per dirmi, poi il Consiglio dei Ministri e domani sera, questa sera dovrebbe essere, Berlusconi in realtà faceva filtrare che poteva essere fino a sabato in caso di problemi, si vedrà se oggi i componenti del governo davvero fanno pervenire osservazioni che il ministro Giulio Tremonti fa proprie, o se riesplode un po' di tensioni e problemi veri. Come avrete capito, la manovra del ministro è quella: intanto datemi il sì ai tagli della delega della riforma fiscale, se ne parla solo dopo, perché dobbiamo metterci in sicurezza con l'Europa. Quello che è evidente è che rispetto alla prima versione delle 70 pagine già ci sono slittamenti, per esempio nella versione originale si trattava di anticipare dal 2015 al 2013 l'adozione dei coefficienti obbligatori e delle misure di innalzamento dell'età previdenziale anche per i rapporti di lavoro privati a 65 anni per le donne, già decisa per il pubblico, e invece adesso si è già preso un anno per questo, quindi non più dal 2013 ma dal 2014. Bisognerà vedere, in altre parole, poi se le misure di estensione di quello che è già stato assunto nella scorsa finanziaria solo per le amministrazioni pubbliche centrali, cioè del blocco all'aggregato 2009 con diminuzione del meno 3, meno 5% negli anni successivi, del totale della spesa per beni intermedi, cioè per le forniture, e questa misura è stata assunta per, ripeto, i ministeri e la pubblica amministrazione centrale, se davvero si riesce ad adottare un criterio di questo tipo che serve ad azzerare agli aggregati del 2010 e non a diminuire solo parte degli aumenti di spesa attesi negli anni prossimi all'intero aggregato della pubblica amministrazione. E qui c'è il noto problema dei costi per le forniture sanitarie. Le costi per le forniture sanitarie sono metà dei 140 miliardi di euro rappresentati dai costi di fornitura nel totale della spesa pubblica italiana, e quelli della sanità negli ultimi 6 anni sono aumentati, aprite le orecchie, del 50%, perché sul totale di quei 140 miliardi quelli centrali sono aumentati del 17%, quelli dei comuni del 23%, quelli delle regioni del 37%, quelli della sanità del 50%. Se si resta nello spirito dei decreti attuativi del cosiddetto federalismo fiscale, quello molto voluto e sbandierato dalla Lega in questo anno e mezzo, non si risolve il problema del contenimento drastico dell'espansione di questa voce, dietro la quale è difficile immaginare che ci siano pandemie che sono state risolte. L'Italia non ha dovuto affrontare colera e tifo negli ultimi 5 anni, tanto da giustificare aumento delle forniture sanitarie dell'ordine del 50%. È evidente che c'è un enorme problema, nicchie collusive, interessi impropri, clientele locali della politica che amministra la sanità. Ecco, col federalismo fiscale, con quel decreto di finanza regionale sanitaria, si adotta una riparametrazione del vecchio costo storico, non del costo standard, però a parità di risorse gestite al 2010, e lo si fa entro il 2019. A me dispiace dirlo, però me lo sentite dire sempre che questi decreti attuativi del federalismo non risolvono il problema né del contenimento, perché stiamo parlando di risorse molto elevate, né tantomeno del riequilibrio in senso virtuoso. Ecco, la finanziaria Tremonti proponeva per la sanità di fare un passo avanti adottando anche lì lo stesso criterio di blocco centrale all'aggregato 2009 per il totale della spesa, in maniera che diminuisse. Vedremo se questa norma sopravviverà. Nel frattempo siamo alla reintroduzione dei ticket, che trovate annunciata oggi. Bisognerà vedere che cosa resta della soppressione degli enti, dei tagli alla politica, dei tagli ai vitalizi parlamentari. Su questi gruppi hanno subito detto no, abbiamo noi di che obiettare. Vedremo. Mi limito a concludere dicendo che quando ho visto la prima versione della manovra mi aveva fatto molto sorridere la norma di liberalizzazione che veniva annunciata per le professioni, perché in parole povere si diceva che erano abolite tutte le indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni, tranne che per architetti, ingegneri, avvocati, farmacisti e autotrasportatori. Già mi faceva sorridere così. Non mi ha fatto sorridere, non mi ha sorpreso il fatto che immediatamente ieri sera è filtrato che anche questa norma è immediatamente saltata, perché naturalmente le combriccole e le professioni italiane hanno subito fatto presente a Palazzo Chigi che non se ne deve neanche parlare. Domande al ministro Tremonti, alla collegialità: bisogna credere o non credere, o è una commedia condivisa con i suoi colleghi, per così dire? A questo rigore, credere perché è necessario e perché senza di lui non l'avremmo neanche salvato quello, e cosa pensare ancora una volta del fatto che tutti quanti sappiamo che bisogna levare le tasse alle imprese e per l'ennesima volta, mi pare di capire, non ci riusciremo, forse. Allora, questi interrogativi io li giro ai miei ospiti di oggi, che sono Nicola Porro, il vice direttore del Giornale. Grazie e buongiorno, Nicola Porro. Buongiorno. Michele Boldrin, lo conoscete, insegna alla Washington University in St. Louis, è coautore di Tremonti, istruzioni per il disuso, di cui abbiamo parlato con lui diverse volte. Grazie a Michele Boldrin. Buongiorno. E Rinaldo Gianolo, il vice direttore dell'Unità. Comincerei con Michele Boldrin. Che pensi di queste di questa in atto in questi giorni? È una domanda di cui conosci già la risposta. Sono qui da un'oretta sveglio che sto cercando di leggere il testo di questo provvedimento, e siamo alle solite, non sai se piangere o se ridere. Le cose le hai già dette tu riassumendole. Non c'è niente di organico. Da quello che capisco, tagli veri non ce n'è. Per il momento ci sono alcune affermazioni di principio abbastanza simboliche. Ci sono parecchi aumenti delle tasse sotto svariate forme, aggiuntivi a quelli di cui abbiamo già discusso e sono stati documentati, anche se questo governo continua a negarli, fatte con il cosiddetto federalismo. e per il resto vi sono le solite promesse vaghe che forse taglieremo qualcosa seriamente, ma dopo le elezioni, perché ovviamente se lo capiamo da soli. Il commento di fondo è che tutto questo è la prova che questo governo, in particolare il suo primo ministro e il ministro dell'economia, hanno mentito agli italiani per 3 anni. Tutti ricordano i conti in sicurezza, no? Non abbiamo bisogno di questo, non metteremo le mani nelle tasche degli italiani, eccetera, eccetera. 3 anni dopo siamo a provvedimenti semidrammatici, malfatti, orrendi, eccetera, e però seri, nel senso che poi l'ammontare che alla fine bisogna riuscire a recuperare è quello che dici tu e forse anche di più. Qui butto lì un'altra cosa, nessuno sta calcolando il seguente fatto: lo spread sul debito pubblico italiano continua a crescere e continuerà. Questo implica che mano a mano che si rinnova debito e si rifinanzia, cresce il costo dello stesso. Queste allegre previsioni che si stanno facendo non so se tengono conto di questa crescita tendenziale dello spread, per cui io direi che forse i miliardi sono più di 45. Comunque, questa è l'impressione di fondo, mi fermo. E la previsione che era legata alla DEF presentata in Parlamento 7 settimane fa oramai era di un passaggio al totale degli oneri del debito pubblico dal 2010 al 2014 da poco più di 70 miliardi di euro, quanto è stato il costo appunto nel 2010, a circa 90-92 se non ricordo male, e incorporava in questa previsione semplicemente un'attesa semestrale di aumento dello 0,25 per il prossimo anno e mezzo, 2 anni da parte della BCE. Non incorporava la cosa di cui parlava Michele Boldrin oggi, cioè l'ulteriore accentuarsi generale aumento dello spread, e quindi bisogna immaginare che quella stima accrescitiva va corretta, secondo me, come dice Michele, verso l'alto ulteriormente. Nicola Porro, che pensa di quello che è in atto e il massimo che si può ottenere, e tutto sommato Dio ci protegga, Giulio, che gli altri sono peggiori oppure no? Ma 2 considerazioni. La prima è che ci hanno insegnato, insomma, quelli a cui ci credevano i liberali, James Buchanan e quelli della Public Choice, che aspettarsi una riforma impopolare alla fine di una legislatura è come aspettarsi Babbo Natale il 15 agosto. È evidente che un governo che ha davanti a sé 1 anno, 2 anni ancora per campare, è difficile che si metta a fare delle proposte impopolari. Questo, insomma, gli americani ce l'hanno spiegato 40 anni fa, non vedo perché un governo che ha un tratto anche, diciamo, populista come per questo possa smentire una teoria che ormai si è accreditata. Questa è la prima, quindi io non mi aspettavo molto da questo governo, in questa fase ovviamente, però non dobbiamo neanche esagerare dall'altra parte, perché in realtà, cioè, la capacità che ha avuto questo governo, Tremonti in specie, di mantenere in ordine i conti pubblici è una capacità che non hanno avuto nessun altro governo. Io vorrei capire, sono stato spesso molto ma molto critico con Tremonti, ma insomma, cosa hanno fatto gli altri governi sul deficit? Quelli hanno speso, avevano una condizione diversa dalla nostra. Ovviamente non avevano il nostro debito pubblico, ma hanno avuto la capacità di aumentare la spesa pubblica. E questo non dico che abbia creato PIL, cosa che piace molto dire a Tremonti, ma che comunque ha creato un vero danno nelle loro finanze pubbliche. Questo noi non l'abbiamo fatto, abbiamo un deficit inferiore a quello alla UE, siamo sempre partiti per essere di più spendaccioni della UE, quest'anno lo siamo stati di meno. Tu hai segnato la questione fondamentale che per la terza volta soltanto dal dopoguerra, almeno in termini assoluti, la nostra spesa pubblica è diminuita. Insomma, poi dopo possiamo anche dire che tutto va male, però io direi prendiamoci anche il merito di questa cosa. Ultimissima considerazione, io vorrei però che fosse molto chiaro ai rigoristi, io mi sento uno di quelli, far capire a costoro cosa vuol dire oggi affrontare un taglio di spesa pubblica per 40-50 miliardi di euro su base triennale. Cosa vuol dire questo in termini di PIL, cosa vuol dire questo in termini di sofferenza di nazione e di coesione sociale? Non dico che non si debba fare, però ricordiamoci che 1.800 miliardi di debito pubblico non l'ha creato il governo Berlusconi e manco quello precedente Prodi, e quindi oggi in questa fase noi dovremmo affrontare una misura recessiva come quella. Boh, non lo so se è proprio il momento giusto per farlo, è evidente che il momento giusto per farlo non c'è mai, però questo mi sembra veramente più sbagliato di tutti. ovviamente per liberare la delusione mostruosa di questo governo, soprattutto in quest'ultima fase, ma vale anche lì la questione della public choice, è quella roba lì per cui io avrei votato, faccio una dichiarazione imbarazzante, Berlusconi per i prossimi 500 anni se mi avesse abolito l'ordine dei giornalisti nel mio piccolo, se avesse abolito, cioè, se Berlusconi avesse promesso, avesse mantenuto questa piccola promessa che, avrebbe, che aveva fatto di maggiori liberalizzazioni a costo zero nel nostro paese, si sarebbero evitati i voti di liberali per i prossimi 5 secoli. E quindi ho riso quando l'ho visto ieri questa norma inserita nelle paginette. E non ho pianto oggi, ho semplicemente detto me l'aspettavo, però purtroppo. Oscar, fammelo dire, perché questo è pro domo nostra, però l'idea che questi non riescano neanche ad abolire gli ordini più inutili come il nostro è una cosa che ci fa più che sorridere e piangere ormai. Ohimè sì, e io però non mi rassegno per l'idea che la difesa dei pro tempore che non sono all'altezza, per chi nutra delle idee deve indurre delle considerazioni, lo dico a voi in ascolto, io non ho certo intenzione di fare mai politica, ma deve indurvi a delle idee su come procurarvi dei rappresentanti, se siete convinti che ci sia troppo Stato, che lo Stato ha delle funzioni ma va concentrato laddove in Italia non riesce a esercitare le funzioni fondamentali per l'eguaglianza dei diritti e dei punti di partenza, e invece si occupa malissimo e troppissimo di fare cose improprie, beh, dovreste pensare forse a chi rappresenta davvero queste idee. Quando Michele Boldrini e quando Nicola Porro dicevano il più e dopo le elezioni, intendono che di questi 47 miliardi oltre 40 sono concentrati sul 2013 e 2014, per essere chiari, non sul 2012 e 2011. Quanto a me, dico che poi gli effetti recessivi, sì, ma non dimentichiamo che queste manovre sono tutte fatte ad andamento tendenziale inerziale di aumento della spesa pubblica. Ripeto, il totale della spesa e delle entrate cresce comunque in maniera vorticosa nei prossimi anni. La mia idea è che un ministro del tesoro, di qualunque colore sia, di qualunque scuola economica sia, dovrebbe come prima cosa dire agli italiani: si fa una riforma metodologica, cioè io rifiuto di fare documenti di contabilità pubblica e proposte di legge di stabilità sulla base dei coefficienti di aggiornamento elaborati dalla Ragioneria Generale dello Stato, non da un politico, che sono quelli grazie a cui la spesa pubblica e le entrate sono sempre aumentate nel nostro paese. Noi stiamo sempre parlando di interventi correttivi di una parte minore rispetto all'aumento reale che si realizza nei prossimi anni della spesa pubblica. Questo è l'errore, bisogna fare come nelle imprese. Nelle imprese si fa un zero base budget, per cui se nel 2010 io sono andato male, ho fatto poco fatturato e poco utili su quel fatturato, devo correggere su quella cifra. Nell'anno successivo dovrò fare più fatturato, più utili, comprimendo questa quella voce, puntando su questo quella voce. Non si fa una cosa sulle attese di qui a X anni nelle imprese, bisogna introdurre questa revisione statistico-contabile anche nella contabilità pubblica, così la gente capirà bene chi promette meno spesa e non la realizza, chi promette meno tasse e non la realizza. Altrimenti fare il conto sul tendenziale degli anni prossimi consente a tutti di fare manovre che vengono presentate come punti di PIL, dimenticando che poi la spesa cresce sempre di più di quello che si è tagliato nel frattempo. E questa, secondo me, è innanzitutto la grande riforma che farebbe il piccolo Oscar Giannino. In realtà io vorrei Michele Boldrini ministro, ma non riuscirò mai ad averlo, sono in utopia. Comunque ci vogliono dei matti competenti, io non sono abbastanza competente, sono forse troppo matto, ma ci vorrebbero dei matti competenti e più coraggiosi ancora di quei pochi che ci sono stati negli anni, ce ne sono stati alcuni, ma secondo me più coraggiosi ancora. Rinaldo Gianola, che pensi di quello che sta avvenendo? Stiamo tutti uccidendo con le critiche, Tremonti mi ucciderà. Ma no, Tremonti è una persona spiritosa e intelligente, quindi sa benissimo anche lui che sta facendo il gioco delle tre carte, insomma, non sta facendo niente di più di quanto ha fatto nel recente passato. Vorrei ricordare, ma così brevemente, che questa è la seconda piena legislatura in cui Tremonti fa il ministro dell'economia, l'altra fu quella del 2001. Se questo governo e questa maggioranza arriva al 2013, diciamo, fa due legislature filate. Ora, non si ricordano, diciamo, cambiamenti epocali nella gestione del debito, del deficit italiano, né della politica economica, direi, in questi 10 anni. Ma la cosa che un po' mi sorprende stamattina, Giannino, sai cos'è? È questa, che noi stiamo ancora discutendo come se dovessimo attribuire a questo governo e al ministro dell'economia un potere politico di essere in grado di incidere ancora sulla realtà italiana. Tu dici in realtà questi non riusciranno a fare neanche niente. Dopo che ci sono stati i risultati elettorali amministrativi e i due referendum che comunque sono stati quei quattro referendum sono stati molto significativi. E dopo che noi veniamo da una settimana, 10 giorni di, diciamo, dibattito, confronto, polemica politica, soprattutto all'interno del centrodestra, dove Tremonti è stato definito bollito o un caso da psichiatria. Quindi anche i suoi grandi sostenitori, e certamente ne aveva moltissimi, e tuttora oggi mi sorprende il fatto che certi ambienti economici, intellettuali e politici, non solo di destra, pensino ancora che ci possa essere un governo, un successore di Berlusconi, che sia Tremonti. Questo è un delirio, ti dà la dimensione della pochezza del dibattito intellettuale politico italiano. Cioè, quando su Repubblica io vedo dei pezzi in cui praticamente si indica Tremonti come il salvatore della patria, o quando in certi ambienti, in certi seminari dell'Aspen, Tremonti appare come se fosse il dio in terra e tutti quanti, compreso alcuni elementi del centro-sinistra, sono lì come dire, che sognano un governo con Tremonti, a me mi viene la pelle d'oca. Vabbè, dell'Aspen lui è presidente, del Ricoletta vicepresidente, per questo capito, è tutto. Ma questa è l'Italia. Però guarda che questo... Tu ti chiedi perché non vengono aboliti gli ordini, non vengono fatte certe misure, non vengono introdotte subito certe misure, perché questo è, come diciamo, è il meccanismo, è la melassa consociativa che ci fa dire anche a qualcuno di sinistra che dobbiamo tenerci Tremonti. Questo è un disastro. Faccio notare, Rinaldo, che quello che tu osservi, per esempio applicato alla Repubblica, tutti abbiamo visto ieri Scalfari che prendeva un ceffone a Massimo Giannini, perché Massimo Giannini aveva dato già in Banca d'Italia Vittorio Grilli, che è quello che vuole mettere il ministro in Banca d'Italia, e Scalfari ha fatto una durissima correzione. Quello che tu dici a Repubblica mi stupisce quando dicono Tremonti. Dall'altra parte, nei giornali schierati col centrodestra, a Libero per esempio, c'è una cosa altrettanto analoga che mi fa sorridere. Per esempio oggi c'è un attacco a pagina 3 a Tremonti che dice: Giulio ha fatto girare la testa a PD, PDL e Confindustria. Qui ci siamo in quella parte di centrodestra invece duro e puro, i resistenti, diciamo, quelli che pensano al ridotto della Valtellina, se posso usare un'immagine di fine mussolinismo, che accusano Tremonti di strizzare l'occhio al nemichen rosso, ovviamente. Allora, e anch'io penso che una politica ridotta a questa sia oramai avan spettacolo, però non so quanto durerà ancora, perché magari poi l'eterna capacità di mancare dei punti di equilibrio solido della politica italiana magari ci regala ancora davvero un anno, due anni di questa cosa. Nel frattempo i conti bisogna tenerli in ordine, e nel frattempo qualche cosa bisognerà fare, magari anche un po' di crescita, pensare, non lo so, in questo punto comunque rispetto ai suoi colleghi che ne smontano anche quel po' di rigore e naturalmente dubitano del fatto che sia giusto alzare un po' di IVA in cambio di meno imposte dirette, eccetera eccetera. Tutta la parte fiscale, abbiamo detto, nella delega per il momento non c'è, si vedrà, ma di sicuro appare un po' diviso il centrodestra. Quando dico un po', è ovvio che sto usando una perifrasi. Allora, Michele Boldrin, ipotizziamo che scende un mago benefico, io, l'aggettivo è mio ovviamente, io lo considererei molto benefico, e che ti faccia avere per un po' il titolo di superministro dell'economia senza un premier che obietta. In quel caso, conoscendo tu l'Italia, tanto che appunto ne hai preso le distanze andandotene e continui ad occupartene in maniera critica, però insomma, diciamo, hai visto in maniera comparata come sono più efficienti diversi ordinamenti sia nel nostro Europa continentale che nel mondo anglosassone, che faresti in questa Italia di cui conosci i vincoli, lacci e lacciuoli? Cosa penseresti di poter fare per rilanciarne la crescita e per correggerne gli andamenti di finanza pubblica? Posso sapere che il ministro dell'interno è quello della difesa? Credo che sarebbe utile per evitare poi le reazioni ai tuoi provvedimenti. Esatto. Ma guarda, ci sono alcune cose banali da fare, però ovviamente socialmente violente, perché la gente non è stata spiegata la loro necessità. La prima cosa è quella che hai detto tu: occorre fare i bilanci dello Stato partendo da zero per ridefinire la spesa ogni anno per i discasteri, non so più parlare italiano, per eliminare questi effetti del tendenziale. La seconda cosa che occorre fare e riformare le pensioni, per davvero, lo so che è sempre la solita storia, per ridurre la crescita tendenziale della spesa pubblica. La terza cosa da fare è cancellare questa legislazione cosiddetta federalista che è stata fatta, la quale altro non fa che aumentare la spesa pubblica e le imposte, e se fosse per me proverei a fare un federalismo fiscale semplice, banale, come quello che si proponeva ancora negli anni 90 e che invece non è stato attuato. Un federalismo che trasferisse alle regioni sia le spese sia le competenze fiscali per finanziare, in quelle funzioni, in quelle regioni le possono espletare queste competenze di spesa. Poi c'è il problema della spesa diretta del settore pubblico. Ma il primo provvedimento, simbolico ma neanche tanto, sarebbe quello di riportare gli stipendi degli statali ministeriali, come ci ha spiegato la relazione della Banca d'Italia un mese fa, alla uguaglianza reale di potere d'acquisto con quelli dei dipendenti del settore privato. Questo implicherebbe un bellissimo taglio del 20% degli stipendi non di tutti i dipendenti pubblici, ma dei dipendenti che vengono classificati come pubblica amministrazione. E questo non include, per esempio, insegnanti, professori del sistema scolastico, i quali in realtà hanno visto nell'arco di quasi 10 anni un aumento reale del loro potere d'acquisto del 2%, mentre nel settore cosiddetto dei ministeriali abbiamo visto una crescita del 27%. Ecco, queste sarebbero forse le prime misure che farei. Poi ci sono ovvie misure di riforma fiscale che vanno, insomma, sono state ripetute da molti, vanno attuate in maniera compatibile con le riduzioni di spesa che si riescono a introdurre. L'idea fondamentale, io credo, non sia tanto questa cosa ideologica e tutta propagandistica di trasferire la tassazione dalle persone alle cose, quanto quella di, da un lato, ridurre e semplificare, ma per davvero, il sistema fiscale italiano, che è una follia, e dall'altro togliere la tassazione dalle attività produttive e trasferirla probabilmente in parte sugli patrimoni e gli assetti non facilmente movibili e molto inelastici. Quindi mi dispiace per gli italiani, bisognerebbe cominciare a tassare la casa e le proprietà immobiliari in generale in maniera alta, e sì, poi tassare anche poi il consumo di beni e servizi non facilmente sostituibili, cioè beni e servizi che non si possono poi acquistare all'estero. Ma questi sono aspetti un po' tecnici che non vale la pena di stare a discutere qui. La cosa prima da fare, ripeto, è cominciare a tagliare spesa pubblica in quei 2 o 3 centri nevralgici di spesa, che sono la spesa per il personale, specialmente per il personale centrale, la spesa per le pensioni, e poi forzando le regioni a razionalizzare e controllare la loro spesa sanitaria, rendendole responsabili del finanziamento della stessa. Ora io aggiungo che da umile passacarte del ministro con pieni poteri di polizia, perché voi capite quali sarebbero le reazioni dei dipendenti pubblici, pensionati, sindacati a questo genere di programma hard del ministro plenipotenziario Michele Boldrin, mi limito anche a dire che sulla parte delle entrate, rispetto alla polemica che oramai è diventata paradossale per me, che sono abbastanza studioso dei sistemi fiscali, del numero di aliquote, cioè qui il problema non è se passare da 5 a 3 all'effetto di crescita, cioè il problema non è quello, perché da quello che ho capito io si tratta semplicemente di abbassare di 3 punti l'aliquota minima da 23 a 20, l'effetto di redistribuzione a favore di chi ha meno dipende da se si tocca o meno a quel punto la soglia degli incapienti, sono cose tecniche anche qua, sì, ma altrimenti ci prendiamo per i fondelli, perché se poi restano l'aliquota 30-40% rispetto alla massimale 43, a seconda di come si disegna l'aliquota e col gioco di deduzioni e detrazioni, magari si può ottenere l'effetto di passare da 5 a 3 aliquote, ma di avere un effetto di estensione della base imponibile, cioè di aumento del gettito della pressione fiscale, ve lo dico io e mi pare di aver capito che anzi è stata fatta esattamente a questo fine l'ipotesi di semplificazione di cui avete letto sui giornali, nel qual caso io non potrei essere favorevole, detta proprio fuori dai denti, mentre invece se fossi passacarte del ministro plenipotenziario davvero mi eserciterei, anzi ho già iniziato a farlo per sfizio mio, davvero su cosa si può fare, non tanto sul numero di aliquote quanto su l'incredibile numero di deduzioni e detrazioni, 476 lo abbiamo appreso in queste settimane, che certificate in maniera del tutto casuale, a seconda del potere di ricatto di lobby e lobbine, consentono davvero di ridisegnare in profondità l'effetto concreto del nostro ordinamento fiscale sulla crescita. Voglio dire, una volta che siamo riusciti a far dire a Confindustria, con tutto rispetto, con questa presidenza, basta con i contributi a fondo perduto alle imprese, e siccome sono 44 miliardi, quei 44 miliardi che sono 10 miliardi in più di quanto ha fruttato l'IRAP nel 2010, beh, allora un ministro dice, siccome sono al netto di quello che va poi ad ANAS, Ferrovie dello Stato, eccetera, di quello che va al pubblico, beh, lì c'è la risposta di come si fa a levare l'IRAP, per esempio. E ne resta ancora, a dire la verità, mi salvo ancora 9 miliardi che trasferisco da contributo a fondo perduto, magari in credito d'imposta di fronte a investimenti che vengono davvero, e così via. Potrei andare avanti molto, e la cosa che mi irrita di più è che magari siano gli economisti o i giornalisti a queste cose ad averle più chiare di quanto siano nel dibattito politico. Propongo a Nicola Porro una riflessione su queste dichiarazioni che leggo sulle agenzie. Sono dichiarazioni del ministro per l'attuazione del programma Gianfranco Rotondi. Dichiara: conosco colleghi che valutano se possono restare a Roma un giorno in più, costretti a fare il conto della serva perché il parlamentare non naviga affatto nell'oro tra indennità e portaborse. Qui ci descrivono con decine e decine di migliaia di euro al mese, ma per la verità, per la mia famiglia ne restano neanche 4.000. Ai tempi d'oro mettevo da parte anche metà di quel guadagnavo. Il 2010, oramai il 2012, diventerà l'anno del parlamentare a chilometro zero, a costo zero. Sarò ridotto a vero proletario dal prossimo 1 gennaio al successivo 31 dicembre. Mi lasciano senza busta paga. Su Sole 24 Ore oggi si documenta come il totale degli emolumenti e i free benefits dei parlamentari porta nel nostro paese ad avere l'equivalente di 140% del PIL pro capite rispetto a Spagna, che è 120%. Ecco, allora, come vogliamo commentarle queste dichiarazioni? Beh, vabbè, Rotondi esagera su queste dichiarazioni, che fanno soltanto male alla sua categoria, diciamo così, perché completamente dà il senso della loro incapacità di capire cos'è la realtà, di come vivono le persone normali, di quello che sta succedendo fuori dal Parlamento. Questo è fuori di dubbio. Permettimi di dire delle cose impopolari però su questo. Io ho scritto un libro con Mario Cervi che si chiama Sprecopoli. Però insomma, noi ci siamo fatti i conti seri, non è che i tagli alla macchina della politica, i costi della politica, gli stipendi della politica sono dei tagli che nascono da un'esigenza di equità, ma non per risolvere i problemi della spesa pubblica italiana. Sia molto chiaro questo, perché non pensiamo che riducendo gli stipendi parlamentari risolviamo il problema della spesa pubblica in Italia, perché questa è una balla a cui non deve credere nessuno, posto che invece ci devono ridurre gli stipendi della politica. E vorrei però aggiungere un'ulteriore cosa. Noi ci troviamo nella situazione per cui l'assessore al bilancio del Comune di Milano non lascia la sua carica di parlamentare e mantiene quella di assessore al bilancio, nonostante a Milano avessero detto che non ci sarebbe stato il doppio incarico. Stiamo parlando di Bruno Tabacci. Di Bruno Tabacci, che conosco una persona molto per bene. Concordo. Ma la sostanza, che lui non può dire perché viviamo in questa gigantesca bolla di ipocrisia, è che l'assessore al bilancio del Comune di Milano, che è uno dei comuni più importanti d'Italia, che è un comune ben gestito, che ha molti dipendenti, che è l'equivalente di una media grande azienda italiana, non può guadagnare quello che guadagnerebbe l'assessore al bilancio del Comune di Milano se facesse solo quello nella vita. Non perché sia giusto o sbagliato in assoluto, ma perché semplicemente fuori mercato, perché il guadagno dell'assessore al bilancio del Comune di Milano è disincentivante per personalità di mercato serie, per bene, che hanno un curriculum che valga, di fare quel mestiere. Potrebbero fare tutt'altro nella vita, perciò vi è un disincentivo a fare il politico in casi di questo tipo. Perciò lui ha dovuto usare l'ipocrisia di non dimettersi da Roma per portarsi lo stipendio di Roma a Milano. Questo per dire che bisogna un po' parlare chiaro su queste cose. Vorrei poi concludere semplicemente facendo una battuta. Il professore che ha parlato prima di me, che io seguo con attenzione e dice delle cose in parte che condivido dal punto di vista tecnico, ma questo conta poco perché io sono banale giornalista, non faccio professore, e altre non le condivido affatto, per esempio la tassazione sulla casa, ma questi sono discorsi che magari ne parleremo insieme. Però c'è un tema fondamentale, e che lui ha capito bene con quella battuta che vuol fare anche il ministro dell'interno e della difesa, vorrebbe o potrebbe, e i professori, Tremonti non era professore ma era uno specialista, quando scrivono prima di fare politica le loro idee di come riformare lo Stato, scrivono delle cose favolose. Io mi ricordo il falò delle tasse, te lo ricorderai? tutti i pezzi di Tremonti quando non faceva politica, non faceva il parlamentare, disegniamo uno Stato favoloso. Quando poi si trovano in quella dannata macchina statale che è fatta di gente che ti viene a protestare sotto casa, di interessi, di politica, di compromessi, di consigli dei ministri, del fatto che quasi non si può toccare nulla, financo gli ordini non si possono toccare, ma voi vi immaginate che cosa vorrebbe dire fare quell'operazione che stava dicendo sui dipendenti pubblici, cosa vuol dire una riforma seria delle pensioni in Italia? Cioè io semplicemente vorrei dare un messaggio di difficoltà di tradurre quello che è giusto per il paese, quello che pensiamo noi, in quello che poi i politici sono costretti a fare perché si trovano A con una burocrazia mostruosa e B con un consenso popolare che in Italia vota al 90% contro la liberalizzazione nei servizi pubblici locali come è avvenuto sull'acqua. Ma di che stiamo parlando? Cioè l'Italia ha votato un mese fa per aumentare le tariffe sull'acqua, questo è il voto del referendum, e noi vogliamo spiegare agli italiani che dovrebbero non avere gli ordini professionali, andare in pensione a 70 anni, avere 1 milione e meno di dipendenti pubblici e avere il blocco dei dipendenti pubblici. Hanno ieri ad Arezzo hanno beccato 50 persone che facevano parte di un ente inutile e che doveva essere cancellato da 10 anni, che timbravano in maniera finta il cartellino, i dipendenti di una authority che guadagnano 4.500 euro al mese, non avendo nessuna qualifica, fanno uno sciopero della fame perché c'è stato un blocco derivante da una norma di Tremonti del 10% dei loro stipendi. Cioè questo è il tema. Noi abbiamo dovuto fare una riforma di Tremonti, ha dovuto fare una riforma delle pensioni nascosta, perché sennò c'aveva la gente per strada. Tremonti ha bloccato gli stipendi dei dipendenti pubblici in maniera celata. Vero, riforme a 3 anni, perché la bomba non la possiamo subire, questo lo dico in maniera appassionata, perché è frustrante. Esatto. Noi giornalisti ne parliamo, ma temo che fare il politico, indipendentemente da ogni colore, sia oggi in Italia un lavoro impossibile. E siamo all'impossibilità di governare l'Italia. A me duole dirlo, ma anche i dipendenti dell'autorevolissima Banca d'Italia, Toto Corde come un solo uomo, sono insorti insieme, rifiutando con scioperi eccetera eccetera i tagli introdotti l'anno scorso appunto alle autorità e alle amministrazioni centrali, le loro retribuzioni, sostenendo di non essere parte del recinto del pubblico impiego, e non si capisce bene da chi dipendano allora i dipendenti della Banca d'Italia. Quindi anche nelle più alte nobili istituzioni si cela questo corporativismo di difendere i privilegi e delle cose che non hanno, voglio dire, possibilità di essere difesa. Quindi l'Italia è impossibile governarsi, ma intanto informazioni sulle strade. Io penso invece che dei pazzi, questo paese, se sono pazzi e coerenti, devono essere molto pazzi, ma pazzi e coerenti, io continuo ad averla la fiducia di qualcuno che possa realizzare ciò che in tutti gli altri paesi del mondo si realizza. In tutti gli altri paesi del mondo la gente si ricorda di chi promette di fare delle cose e non le fa per 17, 20, 25 anni. Perché pensare noi no, Nicola? Io non continuo a crederci. Qualche ascoltatore, cominciamo da Luigi che ci chiama da Firenze. Prego Luigi, come la pensi? Luigi? Luigi non è più in linea? No, non è più in linea Luigi, sentiamo Dino da Padova. Buongiorno Giannino, salve, sono Dino Bortolotto, presidente di Asso Provider. Ah, allora ci conosciamo. Ci conosciamo, in modo epistolare. Volevo segnalare con quanta impudenza anche in questo caso si sia persa l'occasione per fare liberalizzazioni, ed è straordinario come ci si professi liberali e si pratichi, quindi si predica il liberismo e si razzola il più bieco protezionismo, e mentre non si riesce a fare nella manovra nessuna attività per liberalizzare, per contro contemporaneamente questo stesso Stato fa manovre che sono in senso opposto. Mi riferisco al decreto legislativo 198 alias patentini installatori. Mi riferisco all'evento straordinario che sta per accadere di attacco alle libertà costituzionali dei cittadini il prossimo 6 luglio con l'emanazione della delibera Agicom sul diritto d'autore. Che infatti sta movimentando tutto il mondo internet italiano, perché qui stiamo parlando del fatto che migliaia di siti potrebbero per effetto di questo trovarsi a dover chiudere. Dino, noi lanciamo appelli, la manovra non è ancora varata, vediamo un po' se ci danno retta. Sentiamo Vito che chiama da Catania, prego Vito. Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Ascolti, io volevo semplicemente dire che tutto quanta le manovre che saranno, tutte le manovre che vogliono fare, che li vogliono studiare, cosa vogliono fare, non si riescono mai a portare a termine per un semplice motivo: se non si comincia a tagliare le spese che si vanno a affrontare, i lavori che vengono fatti da parte dello Stato, da parte della Regione, da parte di tutti questi enti, che è un lavoro che lo fa un privato, costa 10, faccio un esempio, 10.000 euro, un lavoro che viene fatto da parte della Regione, da parte della Sanità, da parte di qualsiasi ente che sia dello Stato, viene a costare 100.000 euro. Poi ci giriamo intorno dicendo non riusciamo a coprire le spese, non riusciamo, i presidenti di qua, i presidenti di là. Linea di massima sanno tutte queste situazioni, li sanno benissimo, però non li vogliono affrontare, perché sotto sotto, non vorrei dirlo, me ne scuso nei confronti di tutti, ma ci guadagnano pure loro. Vito, ci guadagnano sì, io ti faccio solo un conto, media spesa pro capite per i dipendenti degli apparati regionali, in Sicilia pro capite, in Lombardia pro capite sono 21 euro a testa, in Sicilia sono 335, in Valle d'Aosta, che è il massimo in Italia, è chiaro che la regione è più piccola, però sono 2.200 euro pro capite. Allora, tu capisci che se c'è una forbice di questo tipo, sì, la risposta è che c'è chi ci guadagna. Ma non è con il populismo, ha ragione Nicola Porro, solo dei costi della politica che si risolve la faccenda. Però competenza nel dire aggregati di spesa e entrate per incentivi e crescere e sviluppo, io penso che questo ci sia molto bisogno, che l'Italia che va avanti sui mercati e si fa il fondo schiena ne avrebbe diritto. Voglio dire, Confindustria ieri, questa presidenza di Emma Marcegaglia ieri ha chiuso praticamente il suo mandato. All'inizio ha rotto con l'attendismo sulla CGIL, per essere chiari, con l'accordo interconfederale del 2009, e ieri ha firmato, ieri sera, l'accordo per i contratti aziendali, rivoluzionando la maniera in cui si fa relazioni industriali, contratto nazionale, deroghe, contratti aziendali, riportando anche la CGIL a firmare. Uè, potete dire quello che volete, hanno tanti difetti, ma sti imprenditori, il mondo loro, l'hanno affrontato con coraggio, e in tre anni hanno cambiato le regole, e oggi si può fare un contratto nazionale, derogare e fare l'intesa aziendale, e c'è pure la firma della CGIL alla fine. Gli imprenditori ce la fanno con tutti i difetti che hanno, perché la politica ci deve solo dire no, no, no, domani, domani, domani, oppure non si può? Questo è l'interrogativo, ma continueremo nelle prossime puntate. Intanto, linea generale radio, grazie a Nicola Porro, Michele Boldrini, Rinaldo Gianola.